Kellogg, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Riascoltiamo la puntata di Melog andata in onda il 9 marzo. Qualcosa è cambiato nella mia vita nelle ultime settimane. È giusto che lo comunichi e lo condivida con i miei ascoltatori. Ricordate, un anno fa circa feci una epica trasmissione a Melog in cui contrapponevo due Weltanschauung antitetiche: il ciclista contro l'automobilista, visioni della vita completamente opposte. E feci scannare automobilisti e ciclisti, standomi nel giusto mezzo, non essendo io né automobilista sfegatato e per nulla ciclista, ma semplicemente una persona che prende le metropolitane il più possibile, prende gli autobus, non ha un gran piacere nemmeno a guidare, guido quando serve, è necessario guido. Beh, è cambiato qualcosa nelle ultime settimane, perché adesso io vado in bicicletta, devo andare in bicicletta, una mia necessità personale mi ha costretto, all'inizio sembrava una costrizione, a comprare prima un tandem perché dovevo andarci con un'altra persona dietro, poi un'altra bicicletta singola perché dovevo fare questo passo. L'ho fatto malvolentieri, con una gran noia, ho cercato di dilazionare il più possibile, ma ti pare con un piede nella fossa mi rimetto ad andare in bicicletta? Ci andavo da ragazzino, figuriamoci, ai tempi delle bici grazielle con le ruote piccole, anni terrificanti dell'austerity in cui si andava in bicicletta la domenica perché non c'erano le automobili. Quindi avevo rimosso la bicicletta dalla mia vita come si rimuove il ricordo di una fidanzata cozza dei tempi del liceo. Eppure adesso la mia vita è cambiata. Non vedo l'ora di tornare a casa per prendere la bici e andarmene a spasso sul greto del Tevere, dove dal quartiere Prati si arriva tranquillamente fino all'isola Tiberina e oltre. È stupendo, vedi la città sotto un'altra prospettiva. Devi fare un po' di slalom con le pantegane, ma questo fa parte di una fauna cittadina che è molto divertente anche classificare. Osservi che esiste tutta una sorta di edilizia abusiva sotto i ponti. La città, nei posti suoi più fantastici, come il Vaticano, Castel Sant'Angelo, il centro cittadino, sotto i ponti c'è un'altra città. Ci sono brandine, letti, armadi fatti con sacchetti di plastica. C'è un'altra popolazione che vive lì sotto. Adesso, se dovessi dire che soltanto questa l'esperienza, sarei molto limitato. Ma ho scoperto che esiste un genere umano mimetico, nascosto, che noi non individuiamo mai, perché non ha caratteristiche esteriori diverse dagli altri. Si mimetizza, come se fosse una popolazione silente che sta lì nascosta e vive la sua vita alla faccia degli altri esseri umani. Sono quelli che vanno in bicicletta. Durante la settimana possono essere persone normali, alcuni ci vanno soltanto la domenica, altri ci vanno sempre, altri li vedi addirittura dentro la metropolitana. Un po' di tempo che osservavo persone con piccole biciclettine pieghevoli, sono dei gioielli di ingegneria meccanica. Le piegano, le montano, le smontano, salgono, escono, hanno una maniera di impossessarsi della città che non avevo mai immaginato. Poi ci sono altri che hanno biciclette che bisogna sempre pedalare, non so bene come si chiamino, non ci sono freni, bisogna sempre pedalare. Sembra una follia, però sono dei folli divertenti, vanno come i matti. E ma in discesa come fate a frenare? Non si frena, facciamo una sorta di derapage e riusciamo a rallentare. Dei pazzi, dei folli, ma è meraviglioso. E poi ci sono quelli che prendono la bicicletta per andare a lavorare, prendono la bicicletta per muoversi. E ho capito che in realtà sono clandestini dentro le città. Ho capito che poi esiste anche una filosofia, si chiama ciclosofia. Il caposcuola è un ciclosofico francese, Didier Tronchet, che ha scritto un libro, Piccolo trattato della ciclosofia. Lo prendo proprio in queste ore. Dice, c'è una frase meravigliosa: la bicicletta modifica il tempo ma anche lo spazio. Rifate con la macchina un tragitto particolarmente bello fatto in bicicletta, fa schifo, è come se fosse un altro posto, si è impoverito. Quindi c'è questa sorta di idea che esiste una maniera per aprire il proprio sguardo a delle strade, dei percorsi, dei tracciati nascosti nelle città e farli in bicicletta. Quello che non sono riusciti a fare le metafisiche, che non sono riusciti a fare le scienze, la meditazione, le grandi religioni, le filosofie di vita, è riuscito a farlo la bicicletta, e di questo oggi voglio parlare. Avete mai pensato che le bici, quando potrebbero frenare, potrebbero accendere le lucine rosse come le macchine che frenano? Ben, da ora potete. Con questo video capirete e imparerete come fare una cosa che, quando uno frena, si accendono le luci. Quando la catena non sale, è sempre sintomo che la tensione della corda è troppo lenta. Dobbiamo andare a mettere la corda più intenzioni. Quindi andremo a svitare in senso antiorario la corda del cambio per far sì che la corda vada più intenzione. Ho scoperto che la bicicletta, forse assieme ai pattini a rotelle, ma apriremo un'altra parentesi quando ricomincerò ad andare anche sui pattini a rotelle, era un grande pattinatore da ragazzo. La bicicletta è un mezzo di trasporto che in realtà permette di coprire grandi distanze, di coprirle in maniera molto più veloce che a piedi, in realtà anche molto più veloce di quanto si possa fare in automobile o con i mezzi pubblici, ma è un mezzo di trasporto che uno si può portare anche a letto. La bicicletta uno se la può prendere in braccio e portarsela in casa, se la può smontare nel terrazzino ma anche nel salotto. La bicicletta è molto pulita, in realtà non ci vuole molto a smontare una bicicletta. La bicicletta è bello che uno può andare per strada a vedere un catorcio legato a un lampione senza ruote, senza manubrio, arrugginito, può prendere delle cesoie, staccarlo e portarselo a casa. Sì, non è un reato, mi hanno detto, perché in realtà è abbandonata, anzi è un pericolo per le persone che possono passare. Può divertirsi con la carta vetrata, a pulirla, a riverniciarla, a rimettere a nuovo quel telaio, comprare i componenti più sofisticati, i cambi meravigliosi, i mozzi fantastici, le ruote con i cerchi al mega tungsteno, il manubrio ergonomico, la sella antimorroidale, può comprare di tutto e diventa una bicicletta fantastica. È bella, diventa talmente bella che non hai più nemmeno voglia di pedalarci, ti verrebbe voglia di tenerla in casa come se fosse una scultura. 800240024, scusate il mio entusiasmo del neofita, è sempre così, io mi entusiasmo subito, poi so già che fra una settimana passerò a qualcos'altro. Per oggi vorrei parlare dell'amore per la bicicletta, della filosofia della bicicletta. Vorrei sapere quanti di quelli che mi ascoltano condividono questa improvvisa e trascinante passione per il mezzo a due ruote e a pedali. Urban Bike Messenger, possiamo dire che siamo dei Pony Express, qua a Milano siamo abituati a vedere però soprattutto fare questo lavoro su motorini rumorosi e puzzolenti, sì. La differenza sta che noi usiamo invece delle ecologiche e silenziose biciclette. Critical Mass è una passeggiata che si fa per le vie della città, è un appuntamento che si dà ai ciclisti della città di Napoli in questo caso, e in questa occasione noi occupiamo le strade con le nostre biciclette, così come le strade sono occupate per 29 giorni al mese dalle macchine, e chiediamo spazio per le nostre biciclette e chiediamo che la città possa cominciare a respirare, perché l'unico... Esiste poi nell'ambito dei ciclisti una sorta di arco costituzionale, di differenziazione ideologica, ci sono le punte estreme, appunto, la massa critica, le ciclofficine, che è una sorta di utopia della condivisione della manutenzione della bicicletta, persone gratuitamente si mettono a disposizione, ti danno le apparecchiature, le attrezzature, la loro competenza, si scambiano i pezzi, oppure occupano le città con grandi operazioni di massa per dimostrare che in realtà la circolazione sarebbe molto più agibile con la bicicletta. Quelli che ci vanno per forza, perché in fondo è un mezzo economico, non hanno altra maniera per andare in bicicletta. Quelli che ci vanno come una sfida, quelli che ci vanno come una grande passione. Io quando devo comprarmi il mio tandem, ne ho trovati a decine di tandem a prezzi stracciati, nuovissimi in rete, mi sono domandato, come mai tante biciclette così nuove vengono vendute a prezzi così bassi? Perché l'ho capito, perché esiste anche una sorta di patto d'amore, compriamo due biciclette, andremo come piccioncini nella città, poi la gente si lascia e la bicicletta diventa strumento odioso, e quindi noi siamo fortunati, perché figuriamoci poi i tandem, non ne parliamo, è una sorta di condanna all'eterna e siamese frequentazione di due persone. Quando uno cornifica, lascia, accanna quell'altro, andare da soli con il tandem è una delle cose più sfigate del mondo. Ci ho provato, perché ci sono dei momenti in cui devi anche guidarlo da solo, ti fischiano dietro, te lo sei perso per strada, guarda, sta attento, ti è cascato il passeggero, è una vergogna. Tanto adesso mi comprerò una bambola gonfiabile di quelle realistic, me l'attaccherò sul tandem quando devo andarci da solo e la sgonfio quando può caricarci mio figlio. 800240024, esistono fanatici della bicicletta? Vediamo se è arrivato già qualcuno. È arrivato Roberto, buongiorno. Buongiorno caro, piuttosto la morte che il tandem. Caro mio, se tu non avessi i miei problemi lo potresti dire tranquillamente. Io ho una persona da portarmi dietro che da solo non ci andrebbe in bicicletta, e quindi mi sono fatto il tandem. No, veramente piuttosto la morte, ma... Sì, è molto faticoso, Diciamo che un chilometro in tandem equivale a 10 chilometri in bicicletta, però si fa. No, ma È come avere uno zaino pieno di mattoni. Ho capito, ma se tu devi portare dietro un'altra persona, che fai? Sì, no, viene prezzi comprare la bicicletta, punto. Sì. Viene dietro con me, né più né meno. Ma se non è in grado di andarci in bicicletta? Viene con i mezzi. Ma stai dicendo una cazzata. Comunque andiamo avanti, dai. No, niente, da Milano. Sentivo appunto che prima parlavate anche della Critical Mass. Sono un Critical Mass. Ogni giovedì sera a Milano... Sai, ci sono molte persone non vedenti che se non avessi soltanto non potrebbero andare in bicicletta, visto che hai una coscienza politica così esasperata. No... E questi cosa devono fare, secondo te? E cosa devono fare? Vanno in macchina, secondo te? Non hanno diritto di andare in bicicletta? No, direttissimo. E allora tu... Io parlo per mia esperienza. Per tua esperienza, ma perché negheresti ad altre persone di andare in bicicletta, se possono andarci? No, non mettiamola su... No, la metto su questo piano, visto che hai detto mai vanno con i mezzi, hai detto una grossa stronzata e ti riprendo. Vai avanti, prego. No, ridi, non mi viene da ridere. Meraviglia che tu sei delle persone che portano la bicicletta come strumento politico di riconquista delle città, fai critica esatto, al MAS. E non ti poni nemmeno il problema che ci possano essere persone che non possono andare in bicicletta, che hanno diritto di andarci. Non mi sono mai trovato di fronte a una cosa del genere. Ti informo che esiste anche questo tipo di persone. Ok, perfetto, meglio. Però io un tandem mai. Non lo prenderei mai, contro la tua religione, vabbè. È una scelta personale, ho capito. Né stare né davanti, allora, dimmi esattamente Critical Mass cosa significa. Critical Mass, praticamente io la vedo come una veramente voglia di conquistarsi la città, perché io a Milano non ci vado più, nel senso che abitando in provincia, a Milano non ci vado più tranne per rarissimi casi di urgenza. E quindi vivi tranquillamente, felicemente in provincia e puoi andare in bicicletta. È una buona scelta di vita. Andrea. Sì. Andrea, ciao, buongiorno. Ciao Nicoletti. Una cosa vera, io sono super appassionato di bici, l'ho scoperto anch'io in età avanzata, diciamo. Una cosa solo, per vedere come si possono usare veramente le bici, devo andare in Germania, dove è una cosa fantastica, c'è il doppio di rette. Piste ciclabili. Le piste ciclabili è un altro problema delle amministrazioni. Sì, che no, quelle più diciamo avanzate pensano in anche Italia, a questo. Sì. In Italia vengono fatte piste ciclabili semplicemente per compensazione di oneri sulle lottizzazioni, quelle cose lì. Mentre in Germania vengono fatte per fargli fare le piste ciclabili in mezzo perché ai campi. Realmente le persone hanno una chance di attraversare le città in maniera non disturbando gli altri, ecco, soprattutto. Poi ti do un consiglio più spassionato, c'è una fiera in Germania, si chiama Spezi, dove fanno la fiera delle bici speciali, quindi quelle con la capottina, quelle con un tre ruote. Sì, lo so perfettamente. Una cosa sì. Fantastica, ci sono andato in sto paesino piccolissimo che però ti fa girare, è una roba, insomma, ecco, questo volevo solo testimoniare questo e mi sono lievemente irritato perché il fondamentalismo che io aborrisco in tutte le maniere è a senso unico, esiste la filosofia della bicicletta, non si considera che può essere una chance anche per molte persone. Io ho provato una bici di quelle lì a tre ruote in carbonio, leggerissima, tutta tecnologica, faceva i 70 all'ora tranquillamente sul piano, con la capottina, aerodinamica e tutto. Con una bici così puoi pensare anche di farti 100 km. Io so che Roma è piena di non vedenti che tranquillamente vanno in bicicletta perché c'è una persona che volontariamente li aiuta guidando la bicicletta. E sono persone che fanno lo sport degli altri, hanno diritto anche loro come tante altre persone. Grazie. Alfredo Bellini, buongiorno. Buongiorno. Io ho usurpato la frase citata sul tuo sito bicizen.it, sì, che è il sito che racchiude la filosofia della bicicletta. Sì. Io vedo che già tra i miei ascoltatori sono molte delle domande a cui tu hai dato risposta. Sono le prime domande che fa il neofita che si accosta alla bici. Ma sarà pericoloso? È vero, sì, è molto pericoloso. A Roma specialmente sembra che gli automobilisti prendano i miri ai ciclisti. Come faccio con le salite? Ma poi respiro il monossido di carbonio? Tu hai dato prima una risposta, diciamo, al decalogo negativo dell'aspirante ciclista. Sì, perché fondamentalmente alcune di queste domande me le sono poste anch'io quando ho ripreso, diciamo, da grande ad andare in bicicletta, e quindi sono perplessità, insomma, alcune legittime, altre un po' più così fuori luogo. Sicuramente sul discorso della paura, è chiaro che andare, diciamo, i benefici di andare in bicicletta superano sicuramente quelli del rischio di un incidente. Tu prima hai citato il ciclosofico francese Tronchet, infatti lui dice una cosa anche interessante, cioè che andare in bici in città non è pericoloso, usare la macchina che è pericoloso per il ciclista, cioè lui ribalta completamente l'approccio che normalmente siamo abituati a considerare, no? Che occorre una particolare attenzione, molto di più di quanto si va quando si va con un motorino, con un ciclomotore, è vero, perché la bicicletta, è chiaro che ha un semaforo, non ha possibilità di scattare come scatta una moto, e quando è necessario andare in luoghi che non sono piste ciclabili, bisogna stare molto molto attenti. Quello però, diciamo, la posizione più alta del ciclista, la visione chiaramente a 360 gradi rispetto a un automobilista che invece rimane comunque chiuso, entra alla macchina, quindi non ha una visione completa, comunque avvantaggia. Però devo anche sottolineare una cosa che, insomma, è importante, che c'è una campagna, diciamo, salviamo i ciclisti, rispetto al discorso della pericolosità degli incidenti, che è stata portata avanti da numerosi siti, numerosi blogger, riprendendo, insomma, una campagna proposta dal Times, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica proponendo alcuni punti fondamentali per la sicurezza del ciclista che dovrebbero essere presi dalle amministrazioni locali. Una campagna che sta avendo un grandissimo risalto a livello nazionale, proprio perché il tema della sicurezza, diciamo, del ciclista, ma anche dei pedoni comunque in generale, della strada, è un tema comunque fondamentale e importante. Ecco. Secondo te, al di là, diciamo, di tutti questi aspetti civili, le piste ciclabili, le piste ciclabili occupate dai ciclomotori, dalle macchine che parcheggiano, dai signori che ci camminano a piedi pensando su un marciapiedi, rappresenta poi un problema per loro, per il ciclista che arriva dietro, deve scampanellare e loro protestano, c'è sempre un antagonismo. In realtà, chi fa la scelta della bicicletta in questo preciso momento, in questa epoca, e in grosse metropoli che non sono le città italiane dove fisiologicamente si è sempre andato in bicicletta, andare in bicicletta a Bologna, a Vicenza, è un piacere, sono città ciclo abituate geneticamente. Andarci a Roma può essere una sfida, andarci in altre città molto caotiche può essere veramente una sfida. C'è un portato profondo, interiore, quasi una scelta filosofica nel chi decide di andare in bicicletta? Fondamentalmente i motivi possono essere diversi, diciamo le motivazioni poi sono soggettive, sicuramente ce ne sono varie. Uno è anche il discorso proprio economico, cioè un prezzo della benzina che sale, voglio dire, a 2 euro, già questo è un incentivo a utilizzare un altro mezzo di spostamento. Poi comunque nelle brevi distanze la bicicletta, tutte nelle grandi città, è proprio sperimentato, è stato constatato che ci mette meno tempo rispetto alla macchina. Molti si vergognano, considerano una cosa da... Io ho provato a imporre la bicicletta a un ragazzo liceale, dice: ma papà, sei pazzo, a scuola i miei compagni vengono con la macchinina, mi vedono arrivare in bicicletta e mi tirano i sassi. Sì, è vero, la stessa cosa l'ho avuta io quando ho ripreso appunto andare in bicicletta per andare al lavoro, insomma non ce la facevo più andare in macchina, un giorno ho preso la bici, mi ricavo al lavoro, insomma vivo a Napoli, quindi una città anche abbastanza caotica. I miei colleghi chiaramente all'inizio cominciavano a fare le risatine, le cose eccetera, poi però quando ho iniziato ad andarci poi quasi tutti i giorni al lavoro, la loro percezione è cambiata dalla risatina ironica così sotto a un apprezzamento, quasi con delle domande, a chiedere: ma come fai, che percorso fai? Anche perché io credo fondamentalmente una cosa, che al di là delle, diciamo, qualsiasi teorie, diciamo, su che cosa è meglio fare, l'effetto imitazione è quello, può essere veramente contagioso, cioè più le persone vedono qualcosa che si può fare, più iniziano ad accettarla, quindi alla fine poi adesso per loro, per i miei colleghi nel caso specifico, è normale, tra virgolette, vedere me. Sentiamo solo un istante Vincenzo, ascoltatore. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Ha fatto una scelta radicale 3 anni fa. Sì, io 3 anni fa ho posato la macchina e... solo per lavoro esco con la macchina, però esco sempre in bici, quando piove, quando c'è la neve, sempre. Una cosa che voglio dire però, gli automobilisti non rispettano i ciclisti, perché però non si rendono conto. Ma questa l'avevamo già trattata un anno fa, questa polemica. Noi siamo un veicolo, non ci precedenza, gli incroci, proprio non ci pensano proprio, è proprio come se noi non esistessimo. Guarda, io che sono sia stato automobilista che ciclista che pedone, gli dico, in realtà in alcune città in cui non c'è la cultura della bicicletta, vedono come una sorta di corpo estraneo, diciamo, perché tu vai in bicicletta, ti rendi conto, è vero che in certi momenti, in certi incroci, in certe strade, un ciclista è un grosso impiccio a un semaforo. E le persone logicamente non sanno come comportarsi. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, un saluto a tutti i telespettatori. Volevo portare la mia testimonianza, in quanto io sono un automobilista che fa circa 100.000 km all'anno, ho la patente da 30 anni e ho un po' di esperienza. Io, i ciclisti, io sono anche io un ciclista, nel senso che ogni tanto uso la bici e non li disprezzo, sono di quelli che quando vedo un ciclista avverte dietro al sorpasso. E quindi? Chiudiamo. Con la freccia sorpasso, quindi arrivo al punto. Però quando mi trovo i 7, 8, 10 ciclisti alla pari che creano una colonna, a me è successo una volta, una colonna di 10-15 veicoli e non riuscivamo a sorpassare perché si qua manco allora, si spostavano. Cosa succede in quel caso? La signora davanti a me, dopo riuscito ad andare avanti, la signora davanti a me gli ha anche suonato e si qua l'hanno mandata proprio a quel paese. A questo punto avevo una rabbia addosso, avevo, guarda, una scatola di puntine a bordo, li ho sorpassati e dopo 100 metri ho mollato le puntine. Vabbè, è un criminale comunque. Mi sono divertito. Me l'immagino, però ho fatto giustizia però. Beh, adesso sì, è giustizia da criminale, da serial killer. Melog, la realtà condivisa. Uomini e donne, anziani, ragazzini e anche bambini, gli amanti delle due ruote che hanno deciso di scalare lo Stelvio sono una grande tribù. In piedi sui pedali affrontano compatti i 2000 metri di dislivello, 48 tornanti, ripidi ripidi. Questo qui è quel matto di Matteo che sta partendo per fare un piccolo giretto in bicicletta. Il suo progetto è quello di fare circa 12.000 km in giro per l'Italia. Poi farlo vedere a tutti, a zio, a mamma, a sì, papà. Sì, poi lo doppiamo, lo facciamo. In realtà tutto è nato 2 anni e mezzo fa. Mi ero praticamente scocciato di utilizzare l'auto per andare al lavoro. Io abito a Vomero, ma lavoro a San Giovanni. 800240024, questa mattina parliamo della scoperta della bicicletta. Queste sono alcune voci prese da YouTube, che ormai è diventato il termometro degli umori generali. È facile percepire degli stati d'animo condivisi, delle passioni circolanti o delle avversioni serpeggianti, vedendo con quanto piacere o con quanta frequenza le persone amano rappresentare su YouTube quella che è la loro passione, quello che è il loro sentimento, quella che è la loro scoperta. E la scoperta della bicicletta è qualcosa con cui bisogna comunque fare i conti. Non vorrei questa mattina ripetere la trasmissione che ho già fatto un anno fa, automobilisti contro ciclisti. Fingiamo che non esista il problema di doversi confrontare con strade non adatte, con città percepite, studiate e immaginate soltanto per mezzi ingombranti e rumorosi. Non vorrei nemmeno parlare delle punte estreme, della massa critica, della bicicletta intesa come mezzo di lotta politica. Me ne sbatto veramente questa mattina e vorrei soltanto capire in che maniera uno si riappropria di qualcosa di così arcaico, così antico. Non so da quanto tempo esistano le biciclette, praticamente sono nella loro struttura generale rimaste immutate. C'è un sistema di trasmissione che dal pedale trasporta l'energia dei nostri polpacci e dei nostri muscoli alla ruota posteriore. Esiste un telaio che tiene due ruote, esiste un manubrio, poi esiste un apparato frenante. Però naturalmente la tecnologia è avanzata in maniera incredibile. Oggi sono dei gioielli le biciclette, non è più il mezzo triste e maledetto da lavoro dei tempi del neorealismo italiano, in cui chi aveva la bicicletta poteva lavorare, in cui la mattina nel film Ladri di biciclette si vede da Roma questa immensa massa di ciclisti, centinaia e centinaia di ciclisti erano le persone che andavano a lavorare, i pendolari, gli operai nelle fabbriche, con la borsetta, con la bottiglia che usciva fuori e con dentro il contenitore per il cibo. Il protagonista Ladri di biciclette alla vita spezzata, interrotta, una tragedia immensa perché gli rubano la bicicletta. Di biciclette ne cominciano a rubare tantissime, mi fa segno Fabrizio Intonti, che in realtà queste masse di ciclisti nelle nostre città del dopoguerra, negli anni che precedevano il boom, sono quelle che oggi si vedono in Cina. Oggi i cinesi vanno tutti in bicicletta, è normale andare in bicicletta, salvo quando vengono qui da noi, non vanno più in bicicletta ma sono trasparenti o hanno grandi macchine ma si vede pochissimo. Beh, oggi vorrei parlare appunto della fantastica scoperta della bicicletta. Lo faccio con ospiti e con ascoltatori. l'ho dovuto segare perché devo dare le informazioni della borsa, ha detto una cosa terrificante che butta le puntine a disegno per terra, perché la massa dei ciclisti per strada quando vanno in gruppo a lui dà fastidio, e in effetti io rispetto anche la fretta di un automobilista, capisco che un gruppo folto di ciclisti non gli permette di dare fondo alla sua nevrosi di dover percorrere velocemente lo spazio. Anche lui ha diritto di andarsi dove gli pare, alla velocità che gli pare, nella maniera meglio preferisce di riempire il suo spazio e il suo tempo, però mi rendo conto che in realtà chi anche va in bicicletta non può correre il rischio di essere puntinato e rischiare comunque di farsi del male. Elisa, buongiorno. Buongiorno, salve. Mio marito invece lavora in una comunità per disabili, lui è educatore e insieme a un altro collega stanno portando avanti un progetto per acquistare anche loro tandem via internet prevalentemente, altre biciclette per i loro ragazzi e portarli fuori, così. Ah, ecco, questo perché all'inizio ho avuto un piccolo, mi sono lievemente alterato, ma è uno, anche le sue vicende personali che naturalmente incidono nella propria tenuta, un signore che si propagava un filosofo e un attivista della bicicletta e facente parte della massa critica che occupano le città per far vedere che gli spazi devono essere condivisi, non concepiva nemmeno l'idea che possono esistere le situazioni in cui una persona ha piacere, desiderio, fa parte della sua terapia, della sua felicità, poter pedalare, andare in bicicletta, provare la stessa sensazione con uno che però ti aiuta perché non è in grado di guidare e di governare questa bicicletta. Io so di molti, molti ciechi che felicemente la domenica se ne vanno in bicicletta, so di altre persone con altri tipi di disabilità che hanno grande giovamento alla bicicletta, grazie di questa telefonata. Marinella. Ecco, pronto, sono Marinella da Udine, saluti a tutti e anche a te Gianluca. Volevo solo riportare la mia esperienza. Innanzitutto ho utilizzato la bicicletta fin da bambina, dal primo modo di essere, conquistare la mia libertà, perché abitando in campagna era il modo per raggiungere la piccola città più vicina, e da lì l'ho sempre utilizzata, e in particolar modo poi in Inghilterra, dove come è risaputo piove spesso, ed effettivamente è così, e comunque andavo in giro con il mio poncio e prima o poi me la beccavo la bicicletta, e quella volta la uso sì anche a Udine sempre, anche se piove tutti si meravigliano di questa cosa come se si facesse un'impresa titanica. Beh, io vedo che con i ciclomotori comunque si attrezzano e vanno anche quando piove, quindi ragione di più, probabilmente con la bicicletta, se ben attrezzata, è possibile andarci. Romano Puglisi, buongiorno. Buongiorno. Romano Puglisi ha scritto diverse guide sulla bicicletta, d'ora in poi sarà la persona che ci accompagnerà fino alla fine della trasmissione. Ha pubblicato recentemente Roma e dintorni in bicicletta, 25 itinerari per tutti, edizioni Emiciclo. Ediciclo. Ediciclo. Esiste anche un'altra maniera per concepire la bicicletta, non è tanto la transumanza quotidiana fra casa e lavoro o la passeggiatina pomeridiana, esiste anche l'organizzazione proprio di spazi della propria vita in cui ci si dedica alla bicicletta. Vediamo se riesce a darci qualche altra indicazione, così allarghiamo il nostro punto di vista. Io una cosa che ho sempre cercato di fare, di trasmettere, mi piacerebbe che un giorno l'osservare qualcuno che va in bicicletta sia una cosa straordinaria, perché è così ancora, no? Si vede così con sentimenti contraddittori, o è uno sfigato, è una persona invece che ha capito molte cose. Ci si riappropria di un piacere antico, questa è la sorpresa. Sì, sì, guarda, si può andare ancora in bicicletta, sembra qualcosa di fuori del tempo, per questo ha un valore secondo me. Sì, sì, sì. È un gesto semplice che ha in sé molte cose, c'è il gusto appunto di è una meditazione quella di andare in bicicletta, è la filosofia della lentezza, di riappropriarsi del proprio tempo e contro lo stress. Quindi forse vale il caso di dire però che anche le biciclette, pur essendo rimaste, come ho detto io, nella loro struttura essenziale le stesse di un secolo fa, sono cambiate molto per quelli che si preoccupano delle salite, dell'apparato frenante. Oggi sono delle macchine tecnologiche anche molto raffinate. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda i dislivelli, oggi insomma c'è a disposizione una tecnologia che favorisce enormemente il superamento di ostacoli e quindi di salite. Ecco, diciamo che a partire dalla scoperta della mountain bike negli anni 80, insomma, anzi fine degli anni 70, la bici ha progredito anche nel permettere anche persone inesperte di affrontare dislivelli. Ecco, in questi itinerari che lei suggerisce, esiste la possibilità anche di socializzare attraverso la bicicletta, un grande strumento di socializzazione? Vengo da un'esperienza sul campo da cui poi è nata questa pubblicazione, ed è quella di condividere con genitori la gioia di andare in bicicletta, di scoprire in bicicletta il nostro territorio. Tengo presente che noi non usiamo mai la macchina, partiamo da Roma sempre col treno. A volte andiamo anche lo usiamo anche per andare a Roma stessa. Ma comunque... questo bisogna anche spiegare, che esiste possibilità di trasportare la bicicletta sui mezzi di trasporto, in treno ci si può andare, anche in metropolitana ci sono dei limiti, ma può essere portata la bicicletta. Questa è una conquista proprio della Fiat 20 anni fa, proprio, anzi 21 anni fa, che è, diciamo, dietro una campagna durata 5 anni, insomma, siamo riusciti a smuovere quel gigante che sono le ferrovie dello Stato, insomma, alla fine ha consentito di istituire questo servizio. Quindi c'è un vagone appositamente dove si può lasciare la bicicletta, uno fa il passeggero in treno e all'arrivo dell'itinerario riprende la sua bicicletta. Melog, la realtà condivisa. Bellissima giornata di sole, ideale per una gita in bicicletta. Ma la bici è rimasta fuori tutto l'inverno, è tutta arrugginita. Dopo aver smontato le ruote, per prima cosa pulisci tutta la bici con lo sgrassatore. Poi usa il leva etichette per eliminare gli adesivi. Mentre il solvente agisce, inizia a ricoprire le parti che non vuoi pitturare con scotch e carta di giornale. Ora rimuovi gli adesivi con la carta assorbente e, se necessario, aiutati con la carta vetrata. Questa è una ragazza che anche lei spiega l'arte della manutenzione della propria bicicletta. Leggo molti sms e noto che in effetti esiste una vena non sopita, non elaborata, di livore verso i ciclisti. Non riesco a capire perché. Un ascoltatore mi dice: di sera lungo la via Appia sono tutti vestiti di nero, si mettono il catarifrangente, non riusciamo a vederli. Altri mi dicono: Nicoletti ci ha rotto gli handicappati in bici. Mi dispiace avervi rotto, però non smetterò di parlare dei problemi di chi in realtà ha poche persone che si occupano dei propri problemi. Altre persone ribadiscono quello che non volevo toccare in questa trasmissione, cioè l'annosa antagonismo fra chi va in automobile e chi va in bicicletta. Il primo considera il ciclista una sorta di scapestrato estremista, molto politicamente orientato, che va in bicicletta per dimostrare chi ha l'automobile che in realtà è un inquinatore del mondo. E chi va in bicicletta considera l'automobilista come un attentatore alla propria salute. Alfredo Bellini, che ha fondato bicizen.it, che è una sorta di luogo dove si discute della filosofia più profonda che sta dietro al ciclismo, si può uscire al di là delle possibili correttivi istituzionali su cui non abbiamo nessuna forza, da questa dialettica e serenamente andare in bicicletta senza preoccuparsi troppo poi né degli automobilisti né delle critiche e delle persone che ci considerano spostati, però anche salvaguardando la propria salute? Ma il discorso, mi trovi d'accordo sul fatto che non l'antagonismo bici-auto in realtà non porta da nessuna parte. Secondo me è la percezione che va cambiata, nel senso che l'automobile non bisogna essere più schiavi dell'automobile, nel senso che ci sono tante persone che anche per fare 100 metri utilizzano l'automobile, per fare piccoli spostamenti utilizzano l'automobile, e ecco che questo va cambiato. L'automobile non bisogna essere più schiavi dell'automobile. Io però le dico, io in questo sono veramente molto liberale, ognuno ha diritto di essere schiavo di quello che vuole. Sì, vabbè, io non voglio imporre agli altri i comportamenti. No, ma non è infatti. Però diamo per scontato che ci sono schiavi dell'automobile che rimarranno sempre schiavi, buon per loro. Esiste una maniera per svicolare un passaggio di sapienza esoterica per poter andare in bici? Io so che, esempio, ci sono dei grandissimi marciapiedi, andare sul marciapiede in realtà è un atto illegale, non bisognerebbe andare sul marciapiede, ma in alcuni posti se uno vuole salvarsi la vita va sul marciapiede. Lei quale consiglio pratico darebbe a chi volesse attraversare le città in bicicletta? Farsi istruire da chi è abituato ad andarci, istituire una sorta di passaggio di informazioni segrete? Qual è la maniera per sopravvivere? Ma la maniera per sopravvivere è essere tanti, essere più persone che vanno in bicicletta, più c'è possibilità di sopravvivere, il numero di ciclisti che garantisce la sicurezza, quindi ci sono delle strategie, diciamo, varie di sopravvivenza, diciamo così, evitare di mettersi a andare troppo in fila vicino alle macchine che sono parcheggiate, utilizzare il buon senso. Fondamentalmente, ecco, Bici Zen nasce perché è il discorso della velocità, cioè molti incidenti, molte cose, sia da parte degli automobilisti che da parte anche poi dei ciclisti, derivano dal fatto della velocità, di andare sempre veloce. E invece in una società appunto rallentata, che insomma tende a essere accelerata, il rallentare può essere una chiave del cambiamento, la riscoperta, come dicevi tu all'inizio, di se stessi, ma anche di quello che ci circonda. Però diciamo la verità, sì, molte volte la sopravvivenza è basata anche su piccoli strappi. Fa notare un altro ascoltatore che il codice dice che le biciclette dovrebbero andare in fila indiana, quindi quando si fa tutto il gruppone in realtà si occupa una strada e non bisognerebbe farlo. Molte volte i ciclisti, se uno gli suona, rispondo in maniera molto animosa. È vero, mi sono trovato in questa situazione, si è talmente sotto stress quando un autobus a due piani con scritto sopra Roma Cristiana ti vuole schiacciare contro il marciapiede, è chiaro che uno perde un attimo la pazienza. C'è una difficoltà oggettiva di condivisione. Diciamo la verità, le città ormai sono costruite nella maggior parte per far circolare autoveicoli. La bicicletta è una sorta di oltraggio alla contemporaneità perché appartiene a un'altra epoca. Mantenere questa passione vintage costa anche un prezzo sociale, questo almeno è il mio punto di vista. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire su questo argomento perché io uso quotidianamente la bicicletta per spostarmi in città, abito a Sondrio, eccetera, anche se non è una città, diciamo, a dimensione ciclistica. Però uso anche la bicicletta per fare i miei viaggi. D'estate, normalmente mi sposto con la bicicletta, per dire, siamo stati da Sondrio a Berlino con la bicicletta. Ed è un mezzo bello perché comunque ti permette di vedere. Ma avete organizzati come cicloturismo, cioè con quelli che vi portano le valigie negli alberghi? No, siamo noi, io, mio marito, poi vengono degli amici. E quanto bagaglio avete dietro? Abbiamo parecchio bagaglio, abbiamo due borse. Tutto sulla bici? Tutto sulla bici, utilizziamo il campeggio preferibilmente. Quando lo troviamo, se no ci fermiamo negli ostelli della gioventù, anche se... Vabbè, siete degli appassionati, totali, è chiaro, siete sì, appassionati. Sì, ecco, abbiamo quasi 60 anni, diciamo, abbiamo scoperto circa 10 anni fa la bicicletta e... La vostra è già una scelta che in realtà non dà fastidio, detto fra virgolette, a chi vede i ciclisti nelle città e dice: cosa ci stanno ancora a fare questi in bicicletta, si attrezzino, vadano a piedi, prendano il taxi. Questa è un po' l'idea. Arturo. Pronto? Lei fa quanti chilometri all'anno? Allora, io faccio una media di 4.000 chilometri all'anno in bicicletta. In città? La trovo praticissima e velocissima. Sicuramente più che girare in macchina. Io credo abito a Bologna, città piccola, quindi... Beh, però è una delle patrie della bicicletta, è molto facile. Guardi, non ce ne sono tantissime, vi dirò. Cioè, si vedono degli anziani, qualche studente, ma ecco, nel resto dell'Emilia Romagna ci sono molte più bici. Ma a Bologna devo dire che... Beh, Bologna perché l'Umarella in realtà fornisce dei mezzi di locomozione tipo ape, tipo motorino, tipo macchinina. È difficile, Umarell non va in bicicletta, si sposta a piedi, essendo una città di Umarells, come ci dice appunto Danilo Masomasotti, è calata anche l'attenzione della bicicletta. Romano Puglisi, proprio in conclusione, visto che manca proprio un minuto alla fine, se lei avesse un consiglio, una raccomandazione secca da dare a chi va in bicicletta, ma io proprio in nome della tolleranza, il poter convivere senza, se no non si finisce più, io oggi potrei dare solo spazio al braccio di ferro fra automobilisti e ciclisti, una battuta. Sì, sì, ma io un tempo mi ci arrabbiavo molto anche io, poi a un certo punto sarà l'età, la saggezza, ho cominciato a prenderla con molta ironia e quindi magari quando è possibile raggiungere l'automobilista che mi ha fatto un torto, gli faccio una battuta molto ironica. Quindi prenderla con ironia e cercare di abbozzare, se si vuol dire tranquillamente, anche questa scelta.